Vi chiamo da Istanbul, dalla sede del processo contro i compagni avvocati che difendono Jalan. Sono 46 imputati avvocati, più medici, giornalisti, studenti, sono 100 imputati. Questo è il famoso processo KCK contro il Consiglio delle Comunità Curde. La maggior parte appunto sono avvocati di Öcalan, accusati di essere vicini al terrorismo perché difendevano Öcalan e secondo l'accusa portavano notizie da dentro il carcere a fuori. Stamattina è stata, diciamo, con 40-50 avvocati da tutta Europa, 10 dall'Italia, poi dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera e dall'Olanda sono arrivati gli avvocati in solidarietà, tutti con le toghe in aula. Siamo riusciti ad entrare e gli avvocati di Öcalan hanno chiesto di acquisire il processo che è in corso contro i poliziotti e i magistrati che hanno organizzato il loro processo, che sono accusati di essere persone vicine a Gulen. E quindi adesso si intrecciano tutte le cose, ma i giudici hanno accettato. Facciamo presente che questo processo è nato come fatto da un tribunale speciale, ma che la Corte Costituzionale, su richiesta degli avvocati, ha detto che non doveva essere una Corte speciale e quindi lo sta facendo un collegio di giudice ordinario. E oggi hanno deciso di rinviare al 9 marzo in attesa di quel fascicolo appunto dove abbiamo imputati e arrestati sia i poliziotti che i magistrati che hanno creato le accuse qui contro questi avvocati, medici, giornalisti accusati di essere un'area terroristica vicino ai curdi, al PKK. Quindi è una cosa importante questo rinvio, perché si acquisirà questo processo contro Gulen dove sono implicati questi personaggi che hanno creato prove assurde che ancora non si conoscono dopo 5 anni e che forse dovrebbero stare in questa scena dei servizi segreti che stanno in quell'altro processo che il giudice oggi hanno deciso di acquisire. Quindi questo è un freddo terribile. Intanto una precisazione, prima ho detto... andata bene, hanno tentato di non farci entrare, ma siamo riusciti, eravamo una cinquantina avvocati in toga, alla fine ci hanno fatto entrare. Intanto una precisazione, prima ho detto in diretta al Kurdistan turco, in realtà stai a Istanbul, quindi precisiamo anche questo. Non so se puoi darci anche qualche aggiornamento magari proprio sulla stamattina hanno arrestato altri avvocati, stamattina sono stati altri arresti e infatti una parte degli avvocati è dovuta andare nelle carceri, a Istanbul ci sono varie carceri, a trovare gli altri colleghi arrestati, altre persone. Non abbiamo notizie più precise, sappiamo che ci sono stati altri arresti stamattina, però siamo stati in tribunale, adesso siamo usciti, poi magari mando altre notizie. E intanto ricordiamo comunque che una parte degli avvocati sono dovuti andare al carcere per i nuovi arresti di stamattina, mentre gli avvocati appunto del KCK che dicevi prima sono già in carcere da 2 anni, mi dicevi. Niente, è caduta la linea.